L'altra Europa. I'm running home for Christmas. I can't wait to see those faces. I'm running home for Christmas, yeah. While I'm moving down that line. Buon Natale da Federico Taddia e da tutto il team dell'Altra Europa. Eccoci qua anche oggi, in questa mattinata natalizia, per fare un viaggio europeo alla ricerca, alla scoperta di quelle che sono le tradizioni, di quelli che sono gli usi. Anche questa è l'Altra Europa, no? Un'Europa fatta di culture, fatta di contaminazioni. Oggi usiamo il Natale per andare a scoprire meglio quello che è il nostro grande, grandissimo paese, l'Europa, appunto. E lo facciamo partendo da lassù, dalla casa di Babbo Natale. Siamo a Rovaniemi e con noi c'è Vivian, che lavora proprio nella casa di Babbo Natale. Ciao Vivian, buon Natale. Ciao, buon Natale anche a voi. Allora, intanto, cosa ci fai lassù? Tu di dove sei? Sono da Asti, adesso lavoro qua a Rovaniemi, in casa da Babbo Natale. Allora, noi riceviamo tutte le lettere da Babbo Natale, 500.000 all'anno, allora poi le apriamo e le leggiamo tutte. Ok, ma tu sei vestita da sì, Babbo Natale? Tutto da rosso, poi ci sono le pantofole, il cappello natalizio, no? Cioè, quindi ufficialmente tu sei un elfo? Sì, sono un elfo, okay. Da nato. Ma è l'elfo di Babbo Natale, cioè fai questo lavoro tutto il tempo dell'anno? Adesso siamo molto... Immagino. C'è tanto da lavoro adesso per Natale, ma poi c'è in estate un po' tranquillo, poi da Natale siamo molto... Indaffarati, immagino. Sì. Ma tu sei italiana di origini? Sì, sono nata a Torino e... Sono 7 anni, vivo in Asti, okay. Poi adesso vivo qua a Rovaniemi. Ma come mai che hai scelto Rovaniemi? Come ci sei arrivata? I miei genitori siamo trasferiti qua in Finlandia. Ti trovi bene? Freddissimo? Sì, okay. Freddo. Qualche 2 settimane fa faceva meno 30, pochettino freddo. Poi c'è 80 centimetri di neve, bello. Insomma, mi sembra che lo scenario sia assolutamente natalizio. Guarda, sì, è curioso parlare con un elfo di Babbo Natale, però insomma è bello farlo in questa mattinata, mi sembra veramente il giorno adatto. Grazie davvero Vivian, buon Natale a te, salutaci Santa Claus, ok? Sì, buon Natale anche a voi. Grazie, ciao. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne, gooi wat in de lege, lege tonnen. Strooi wat in de huizen, we zullen grappen. Continua il nostro tour europeo alla ricerca delle tradizioni natalizie. Stiamo andando in Belgio, con noi è Naomi Carles, ragazza torinese di 19 anni che sta facendo servizio volontariato europeo. Ciao Naomi. Ciao. Ciao, buon Natale. Buon Natale anche a te. Come mai sei in Belgio? Sto facendo il servizio volontario europeo in una scuola di circo qui a Mechelen, quindi nella parte fiamminga del Belgio. Ah, e dove tu insegni arte circense? Diciamo di sì, faccio più che altro assistenza e seguo dei corsi per me anche. Ok. Molto bello. E Naomi, oggi ci fai la nostra inviata natalizia. Quali sono le tradizioni lì in Belgio? Le tradizioni, la principale direi che è il 6 dicembre, sì, perché arriva Sinterklaas, che porta ai bambini dolcetti, il cioccolato, che qui è molto famoso, i biscotti. I bambini devono lasciare una scarpetta davanti al camino, davanti alla finestra, davanti alla porta di casa, e al risveglio il 6 dicembre si ritrovano tanti dolcetti e un regalo. Sinterklaas è aiutato dai suoi aiutanti che si chiamano Swat Pit, che praticamente vuol dire uomo nero. Sì. E sono neri non perché arrivano dall'Africa, ma perché devono passare il cammino, quindi sono ricoperti di fuliggine. Ok, quindi insomma, appunto, dovendo entrare dal camino, giustamente si sono annerriti. E Naomi, anche tu ti sei vestita da aiutante di Sinterklaas? Sì, mi sono travestita. Spero che i bambini in questo momento non mi stiano ascoltando, ma non importa. E abbiamo fatto un open lab di circo, perché Swat Pit è considerato l'aiutante di Sinterklaas atletico, che deve camminare tra un tetto e l'altro e cose così, e quindi i bambini potevano venire e provare a camminare sul filo teso, arrampicarsi sul palo cinese, stare in equilibrio sulla sfera e ricevevano tanti biscottini, cioccolatini, cose varie. E via, insomma, quindi un Natale circense. Grazie davvero, Naomi, buon Natale! Buon Natale anche a te, ciao! Ciao! Ci fermiamo, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'Altra Europa, speciale Natale! L'altra Europa. Når nettene blir lange og kulla setter inn, så sier vesle musemor til ungeflokken sin. Hvis ingen går i fella, men passer seg for den, skal alle sammen snart få feire jul igjen. Heisann og hoppsann og faller allera, om julekvelden da skal alle sammen være glad. Ancora buon Natale dall'altra Europa e stiamo andando alla scoperta del Natale in giro per l'Europa. Questa musica che state ascoltando è un canto popolare norvegese. Di cosa stia parlando? Ce lo dice il nostro ospite. Diamo il benvenuto a Jon Rollien, traduttore, critico letterario ed editorialista norvegese. Ciao Jon, ben ritrovato e buon Natale. Buon Natale a voi. Cosa stiamo ascoltando? Cos'è questa musica? Ah, quella è una canzone molto molto bella, popolare, è tutto del Natale, i riti di Natale, ma messo in una famiglia di topi o di storici, insomma, piccoli topi. Sì. E loro fanno tutto questa festa e danzano, ballano così, e però devono fare attenzione al gatto, perché se riescono a evitare il gatto possono rifare Natale prossimo anno, insomma, è così. Okay. Poi si balla. Jon, qual è la tradizione natalizia tipica norvegese? Chi è il personaggio principale? Ah, sì, questo è un po', cioè, il principale sarebbe Gesù Bambino, no? Certo. Però qui è abbastanza misto tra, diciamo, tradizioni pagane e tradizioni cristiane. Così ci sono questi personaggi un po' ambigui, tipo Babbo Natale, no? Mm-hmm. Che è grande in tutto il mondo, San Nicola, come si chiama in Italia. Sì. Ma invece da qui il Babbo Natale è anche un gnomo del bosco, dei sotterranei, no? E quello tradizionalmente con il capello rosso, vestito un po' così, con la barba, che sì, poi è diventato Babbo Natale, è quel misto. E lui era invece un cattivo e bisognava stare attento a dargli da mangiare la notte del Natale, cioè la vigilia. Si metteva un piatto fuori, sì, o nel fienile o nella stalla dove lui abita, e se non si metteva quello, lui faceva dei brutte cose con gli animali e con le persone, dei scherzi, ma anche delle cose più cattive. Allora era molto importante di dare da mangiare a questo gnomo. Mm-hmm. Poi dopo è diventato questo bonaccione di Coca-Cola, eccetera. Ma tuttora i bambini lasciano questo piatto, credo col budino di riso, se non erro, per il folletto. Budino di riso o di avena, o insomma queste cose che... cose povere, però fatto sempre con la panna, sì? Attenzione, se tu non metti panna lui non sta contento. sì, questo si fa, adesso si fa così per tradizione, per divertirsi, ma per i bambini questo è molto eccitante, no? Mm-hmm. Allora poi anche i genitori devono fare sì che questo compare, no? questo budino di notte, no? Certo, se lo vanno a mangiare. Ed è lui che porta i regali? Ma no, lui non porta i regali, quello è un altro Babbo Natale, diciamo, quello più tradizionale, che si trova in casa, che sarebbe un nonno, un zio, che si è travestito. è sempre lui, e allora per questo anche qualche bambino ha molto paura, ma non lo so, anche in Italia avranno un po' paura del Babbo Natale, no? Beh, la paura è quello che non, la paura principale è che non arrivi, poi quando arriva. Ma sì. Quella canzone che abbiamo sentito, questa è anche una cosa bella, perché a Natale qui si balla intorno all'albero, no? Uh-huh. Si fa questa processione tenendosi in mano e si canta siano i salmi delle canzoni, diciamo, spirituali del Natale, sì. Molto belle così. Poi ci sono queste più di festa, di parodia, di ballo un po' scatenato, dove anche si gira in tutta la casa. Non so se chi ha visto Fanny Alexander, lì si vede un po' quello che si fa qui, che si nasconde, si fanno dei scoreggi, insomma si fa tutte queste cose un po' più carnevalesche, no? Ho capito. Visto con questa cosa del cristianesimo è un po' strano. Sì, è una bella contaminazione. Quindi anche tu ballerai attorno all'albero oggi? Sì. Molto. Balliamo e... stiamo bene tutti quanti. Grazie davvero Jun, come sempre, per questa sintetica ma efficace fotografia del Natale norvegese. Auguri di buone feste. E buone feste a tutti voi. Come si dice buon Natale in norvegese? God jul. Attenzione, l'abbiamo fatto nostro. Jul è quella cosa pagana, sai, che è quello quando gira l'anno, no? Sì. Jul è una festa anticristiana. Ok. E anche lì c'è un po' questa ambiguità, no? Però è un bel suono. Grazie davvero. Ciao, buone feste. Va bene. Ciao. De amanecer, que llama el chor, Gaspar y Baltasar. Todos los regalos dejarán para jugar mañana despertar. El niño Dios muy bien lo agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó. Y fue después. Sonorità spagnole per questa sorta di inno dedicata, un inno dedicato ai Re Magi. E siamo infatti a Madrid con Francesca Nuzzaco, che tiene un blog, viveremadrid.it, dove ha raccontato tantissime tradizioni legate alla città e alla Spagna. Ciao Francesca, buon Natale. Buon Natale a voi. Allora, com'è il Natale spagnolo? Il Natale spagnolo è molto bello e molto allegro, come tutte le festività in Spagna, e quindi ci sono tante tradizioni curiose, soprattutto a Madrid, che è appunto la città che io vivo e che amo. Tra le cose, insomma, tra le tante cose curiose che hai scritto, c'è questa delle parrucche sgargianti. Sì, effettivamente è una cosa molto divertente. In tutto il periodo natalizio, più o meno dalla metà di dicembre fino a, insomma, dopo il Re Magi, quindi dopo il 6 gennaio, a Madrid è molto tipico indossare delle parrucche colorate, fosforescenti, oppure dei cappelli fatti di lana con delle teste di animali o, non so, delle corna di renne o degli alberi di Natale. Quindi si va in centro, in giro per la città, con questi copricapo veramente strani, esotici. Però si svolge la vita normale, per cui vedi appunto delle vecchiettine che bevono il loro caffè nel bar, però con delle parrucche colorate. Fantastico. E tra l'altro i regali, sì, è molto divertente. I regali arrivano il 6 gennaio, sono i Re Magi a portare i doni, sì, giusto? Sì, esatto. Ai bambini. In Spagna non esiste Babbo Natale, cioè insomma in quasi tutte le famiglie sono i Re Magi a portare i regali, e poi in Catalogna c'è il Tio Cagón, che sarebbe un tronco d'albero che viene coperto con una coperta e poi picchiato con dei piccoli bastoni dai bambini e caga i regali, quindi appunto lo zio Cagone. Fantastico. qual è il dolce tipico? Il dolce tipico che abbiamo è il roscón de Reyes, che sarebbe una specie di ciambella. Anche questa è molto divertente, perché è una ciambella ricoperta di zucchero e con dei pezzi di frutta candita sopra, e all'interno viene tutta farcita con panna o con crema, e nasconde due piccoli segreti, che sono una fava e una piccola statuina di plastica di un Re Magio. Quindi si mettono in questa ciambella i piccoli segreti e poi si taglia a fette, e colui che trova la fava deve pagare il roscón. e invece colui che trova la statuina del re Maggio diventa re per un giorno. Mm-hmm. Quindi praticamente tra la ciambella e il vassoio c'è una corona di cartone, sì, e il re per un giorno la indossa e appunto è un vero e proprio re con tanto di corona e possibilità di comandare sugli altri e decidere le leggi della giornata. Ok, Francesca, allargandoci un po' a tutto il periodo delle festività, so che sono in vendita dei sacchetti con 12 chicchi d'uva dentro, come mai? Sì, perché questa è un'altra usanza tipicamente spagnola che inoltre è nata proprio a Madrid, cioè pare che un anno ci fosse stato un surplus di produzione di uve, quindi non sapendone che fare avevano distribuito in Puerta del Sol, che sarebbe la piazza principale della città di Madrid, questi acini d'uve, quindi qualcuno aveva creato questa sfida di mangiare 12 acini negli ultimi secondi del vecchio anno aspettando il nuovo. E quindi da questo è nata la tradizione, per cui adesso si trovano proprio nei supermercati delle piccole confezioni con 12 acini d'uva che vengono appunto ingurgitati in modo molto rapido aspettando il nuovo anno. Ed è una cosa molto importante nella tradizione spagnola e infatti in tutte le famiglie si fa ed è veramente molto divertente, anche un po' pericoloso perché immagina 12 acini d'uva in meno di 10 secondi, perché non è uno al secondo ma è un tempo inferiore, diventa proprio una sfida verso il nuovo anno. Sì, esatto, mi sembra una vera sfida finale. Francesca, grazie davvero, ricordiamo il sito viveremadrid.it, tra l'altro vivereamadrid.it, e poi sei anche autrice del libro Madrid fuori circuito, 100 esperienze imperdibili a Madrid, giusto? Sì, sì, in vendita su Amazon. Ottimo, buone feste, buon Natale, grazie. Grazie, un bacio, a ciao, presto, a te, ciao. Ciao, ciao. È tempo di paz, nosso Deus, pequenino si fa. Ancora l'altra Europa, speciale Natale, la nostra. Slitta radiofonica ci porta in Portogallo, diamo il benvenuto a Filipe Preto. Ciao Filipe, buon Natale. Ciao Federico, buon Natale anche a voi, grazie. Coautore del gioco in scatola Arriva la Troica, grande successo portoghese, questo è il vostro secondo Natale. È vero. Quindi speriamo che sia uno dei regali più... Sì, speriamo anche noi, è arrivata anche in Spagna e in Grecia finora. Perfetto, seguite insomma veramente gli spostamenti della Troica. Chi porta i regali in Portogallo? Chi porta i regali ormai è Babbo Natale, purtroppo. Cambiano i tempi, cambiano anche le tradizioni, però prima era bambino Gesù, mm-hmm, chi li portava, cioè i doni era una cosa era l'offerta tipica del bambino Gesù che portava i regali ai bambini, mm-hmm, e li lasciava davanti al camino insieme ad ogni scarpa, cioè ogni bambino si lasciava la sua scarpa o sotto l'albero o davanti al camino e si aspettava i suoi regalini. Ho capito. So che tra le tradizioni c'è anche quella di gruppi di persone che si radunano per strada a cantare. Come si chiama? Si chiama... cioè sono le canzoni popolari semplici che si chiamano Janeiras. Uh-huh. Il nome arriva infatti dal mese di gennaio, che in portoghese si dice Janeiro. E sono canzoni che vanno cantate per strada augurando il nuovo anno. E uh-huh. È un modo per farsi, per farsi gli auguri, insomma, per gli auguri, cantare le buone feste. Anche per la nascita di Gesù. Certo, c'è qualche altra tradizione tipica? Ma la tradizione sono tutte collegate con la festa natalizia, certo, e le tradizioni cattoliche, però quella che per me è la più bella è veramente la riunione della famiglia la sera, la vigilia del Natale, sì, cioè il 24 tutti si riuniscono in famiglia per il gran cenone di Natale, in cui qua si mangia tipicamente il baccalà cotto con lo l'olio d'oliva, le verdure, cioè questo è un piatto che va mangiato da sempre qua e, ed è diciamo un simbolo, anche se poi va mangiato anche il resto dell'anno. Però insomma la sera della vigilia, la sera è una tradizione mangiarlo così. Ok, grazie davvero Filippo, buon Natale a te, buon buone Natale feste. Anche per voi, grazie ancora. Grazie davvero, ciao. Adesso la pubblicità, ci fermiamo, poi torniamo qui con l'altra Europa. L'altra Europa. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Ancora buon Natale da Federico Taddia, questa è l'altra Europa, una puntata speciale, un tour natalizio per scoprire quelle che sono le tradizioni all'interno del nostro continente. Con questa musica viaggiamo verso la Polonia e diamo il benvenuto a Malgosiata Pawlecek. Ciao Malgosiata, buon Natale! Ciao, buongiorno, buon Natale a tutti. Studentessa polacca, ti abbiamo già conosciuta appunto in passato, ci hai fatto un po' da inviata sul posto. Gosia, quali sono le principali tradizioni legate al Natale in Polonia? Allora, secondo me più importante è che in Polonia le feste natalizie si inizia quando sul cielo appare la prima stella. E di solito i bambini aspettano per quel momento. Sì. E quando la prima stella arriva, tutti si mettono a tavola. Ok. L'altra tradizione che mi piace tanto è che a tavola restano sempre i posti liberi. Nella mia famiglia si lascia sempre un piatto vuoto, pronto per qualcuno che può arrivare nell'ultimo momento, improvvisamente, oppure qualche vicino di casa che è rimasto da solo. E in quel giorno ogni persona è benvenuta. Il pasto principale credo sia quello della vigilia, se non erro è composto da 12 pietanze? Sì, esatto. Se le mamme hanno la forza per preparare tutti questi piatti, sì, è vero, ci sono 12. Queste più tipiche sono uszka, è un tipo di ravioli con funghi e crauti, oppure barszcz, è una zuppa di barbabietola. Sì. È abbastanza forte, con aglio e altre spezie. C'è anche la carpa, aringa o vari dolci come seme di papavero con uvetta, noci e miele. Uh-huh. Molto tipico, mi okay. sembra. Poi immagino ci sia l'albero di Natale tradizionale? Sì, è una cosa obbligatoria. Tutti i bambini non vedono ora di preparare l'albero di Natale, di mettere tutti i giocattoli, tutte le stelle. Sì, è una cosa molto importante nell'ogni casa. Mm-hmm. E i regali li porta Babbo Natale nella notte? E questo dipende dalla regione. Ad esempio, a casa mia i regali porta la stella. Ah. Invece nelle altre regioni è Bambino Gesù. Ho capito. O anche il Babbo Natale, sì, dipende dalla regione. E poi credo una grande tradizione anche legata ai canti di Natale, ai cori. Ah sì, appena abbiamo sentito una bellissima colenda, questo tipo di canzone che si usa tanto da noi, già da una settimana si sente le colende. Sì. E anche per prossime settimane ci saranno nelle radio, ci saranno a casa, che anche io con la mia famiglia usiamo di cantare. E anche molto molta bella cosa è che ci sono Ninne Nanne per il Gesù. Anche un tipo di colenda, una canzone per il bambino. Mm-hmm. Grazie davvero a Malgosiata per averci illustrato il Natale polacco. Ciao e buone feste. Grazie mille, buon Natale a tutti. Grazie ciao. Davvero, ciao. I've been in line for Christmas, as a turkey I am blessed. They're gonna have me for supper, and I'm gonna be their guest. Well, I've been invited for Christmas. I'll be dressed just right. or even a snack. But the other turkeys who went through their door must have liked it or they would have come back. Sono stato invitato per Natale, canta questo tacchino. Beh, insomma, il tacchino ripieno è una delle tradizioni che appare in tante nazioni. Facciamo una piccola deviazione sul romanticismo e la poesia del Natale, parlando di una ricerca scientifica che è stata realizzata all'Università di Uppsala, siamo in Svezia, in collaborazione con l'Università di Liegi, siamo in Belgio, e una goliardata probabilmente, perché i ricercatori si sono seduti attorno al tavolo per capire qual è il metodo migliore per realizzare il tacchino ripieno. Ha partecipato anche un'italiana, una radiologa alla clinica veterinaria dell'Università di Liegi. Diamo il benvenuto e il buon Natale a Valeria Busoni. Ciao Valeria. Ciao, buongiorno. Avete sperimentato tecniche di suturazione del tacchino per capire scientificamente qual era la metodologia migliore, giusto? Sì, sì, è stata effettivamente un'idea del nostro chirurgo equino, che effettivamente adesso è a Uppsala, sì, ma che all'epoca era da noi a Liegi, e quindi in realtà è uno studio molto belga, a parte che io sono italiana nel gruppo, perché lui è belga, anche lui fiammingo, e l'idea è stata questa di vedere, è venuta fuori da un discorso con altri chirurghi a una cena, ovviamente così per ridere, e poi siamo messi a farlo seriamente. E quindi avete sperimentato la cosa su 15 tacchini ripieni con tecniche diverse. Ripieni, esatto, che sono stati preparati secondo tutte le indicazioni della food safety americana, e quindi cotti da uno chef professionista, nostro amico ovviamente, che si è prestato a questo divertente gioco, e sono stati tutti suturati ovviamente da un chirurgo diplomato veterinario, sì, con diversi tipi di sutura, compresa con le graffette metalliche. Poi ecco, lui molto seriamente ha giudicato le sue suture prima e dopo cottura per vedere qual era quella che dava il risultato cosmetico migliore e permetteva di tenere la pelle del tacchino più intatta dopo la cottura. E qual è stata la metodologia migliore? E allora, la metodologia migliore è stata quella delle graffette metalliche dopo la cottura, e ovviamente lui, che all'epoca è stata questa cosa, è stata abbastanza seguita anche da alcuni giornali americani che l'hanno intervistato, e dice ovviamente poi bisogna levarle con cautela perché non sono facilmente digeribili. Quindi insomma, la metodologia comunque davvero era scientifica, cioè avete seguito una sorta di protocollo proprio serio. È stato fatto in maniera molto seria, tant'è che è stato subito accettato da un giornale scientifico inglese e si trova negli articoli indexati su PubMed, che è uno dei motori di ricerca degli articoli con il comitato scientifico di lettura, quindi ecco, probabilmente una delle mie pubblicazioni che ha il più alto impact factor. Fantastico, è uno studio una vita poi. Esatto, e tra l'altro io sono radiologa e sono vegetariana, devo dire, per cui... quindi proprio l'ideale, mi sembra proprio la tua ricerca. Valeria, passi il Natale a Liegi? Sì, a Liegi, e mi sono fratturata la caviglia 2 giorni fa, e quindi non sarà un Natale molto, molto movimentato, sarà un Natale belga molto casalingo. Oh, ok, ci dispiace, ma insomma ci dispiace per la caviglia soprattutto, e comunque buone feste, grazie per aver partecipato a questa puntata natalizia, ciao, buon Natale. Grazie mille, ciao, arrivederci. Ciao. Lo avete riconosciuto, è Astro del Cielo in versione albanese, perché stiamo andando in Albania e lo facciamo con la nostra amica e voce ben nota qui all'Altra Europa, Mariola Rucai, corrispondente dell'Osservatorio Balcani e Caucaso. Ciao Mariola, buon Natale! Ciao, buon Natale a voi. Allora, credo non sia facilissimo definire quelle che sono le tradizioni natalizie albanesi, perché è terra dove convivono più religioni. Cosa succede a Natale? Sì, infatti è complicatissimo, perché appunto in Albania ci sono tre religioni che poi insomma sono divise, in realtà sarebbero quattro religioni, perché sono due tipologie di musulmani, poi appunto insomma i sunniti e i bektashi, poi ci sono gli ortodossi, poi insomma i cristiani ortodossi, poi i cattolici e tante altre mini sette di nuova introduzione insomma dopo il crollo del comunismo. Quindi vi sono poi insomma quelli che sono di famiglia mista, che quindi non sanno come definirsi, un po' di qua un po' di là, festeggiano tutto, festeggiano niente, insomma è abbastanza complicato, però diciamo che comunque l'atmosfera di Natale insomma specialmente negli ultimi anni è insomma sempre più presente, mentre negli anni del comunismo ad esempio tutto quello che riguardava le tradizioni del Natale si era tradotto in tradizione di Capodanno, quindi tutto quello che prima si faceva per il Natale si è diventato festeggiamento da Capodanno, invece adesso si è insomma un po' c'è una riscoperta, riprendere, sì, spesso anche reinventando le tradizioni, un po' come direbbe Zygmunt Bauman, no? Nel senso proprio prendendo di sana pianta cose che ci piacciono da altre tradizioni, ma è legittimo alla fine anche questo. Mariola, c'è comunque un segno, c'è un cibo, c'è un uso che ritorna, sì, o che non si è perso? Allora, io sono di famiglia ortodossa del sud dell'Albania, ad esempio da noi si inizia già tre giorni prima insomma di Natale appunto con tutti i festeggiamenti, con cibo particolare, un sacco di cibo naturalmente, e poi sì, il culmine dei festeggiamenti è il 24, quando si fa un dolce tipico che si chiama colinde, o in alcune altre regioni anche colendra, ed è un dolce abbastanza tipico natalizio, con della cannella, con a volte col cioccolato, con delle forme insomma particolari, e si inizia, questi dolci bisogna darli ai bambini che si fanno in gruppetti, insomma fanno dei gruppetti, sì, e vanno di porta in porta a bussare, a cantare delle canzoni, specialmente nelle città o nelle regioni in cui la popolazione insomma è più ortodossa, è più compatta, ad esempio nell'Albania sud orientale, certo, c'è una città che si chiama Korça ad esempio, e lì ci sono molto più, cioè gli ortodossi vivono in zone più compatte. Ok, quindi insomma questa è una tradizione assolutamente più diffusa. Grazie davvero Mariola per averci dato un assaggio del Natale albanese, buone feste di cuore. Grazie, buon Natale anche a voi. Ciao, a presto. Adesso ci fermiamo, le informazioni per chi sta viaggiando poi ancora qua con l'Altra Europa. L'Altra Europa. Jõulukell, pühad on saabumas linna, kõigile teatab see, peagi on käes jõulupäev. L'Altra Europa speciale Natale continua il nostro viaggio alla ricerca, alle scoperte delle tradizioni natalizie. Siamo in Estonia, diamo il benvenuto e il buon Natale a Ulle Todde, addetta stampa dell'ambasciata estone a Roma. Ciao Ulle, ben ritrovata. Ciao Federico, ciao a tutti, hai Giule e buon Natale. Buon Natale a te. Allora, partiamo subito dalle vostre tradizioni. Chi è Yuluvana? Ho detto bene? L'ho pronunciato esattamente? No, esattamente, eh? Sì. Sì. Tutti i bimbi in Estonia questi giorni, proprio stasera, ancora provano a imparare benissimo tutte le piccole verse o piccole poeme che devono leggere per Babbo Natale. Mm-hmm. Che è Yuluvana, appunto, l'equivalente di Babbo Natale, aiutato da dei folletti che si chiamano? Si chiamano Pekkapikut. Okay. E certamente Babbo Natale viene con le renne dalla Finlandia. Certo, quindi insomma è abbastanza vicino, tra l'altro. Sì, sì, sì, sono fortunati i bimbi estoni, perché infatti non è da lontano da dove viene. Ulle, tra l'altro c'è una tradizione o una leggenda legata all'Estonia, perché pare che l'albero di Natale sia nato proprio lì, giusto? Sì, infatti si dice che nel 1441, nella piazza principale antica di Tallinn, capitale dell'Estonia, un mercante ha messo un albero e ballato lì con delle ragazze, bimbi intorno a quest'albero, e poi hanno messo un po' di fuochi sull'albero anche, quindi poi è nato leggenda. Che praticamente adesso si usa di mettere candele e decorazioni sull'albero di Natale. Certo, quindi insomma il 1441 è datato il primo albero di Natale. Ulle, c'è qualche altra tradizione a cui siete particolarmente legati? Sicuramente è famoso anche proprio sulla stessa piazza di Tallinn, mercato di Natale, che è un momento molto particolare dell'anno, inizia dal fine novembre e dura fino al 7 gennaio, e quindi lì si può vedere bellissime cose, oggetti di artigianato, dalle decorazioni sul vetro e ceramica alle candele colorate, che in questo periodo dell'anno sono molto importanti, e sicuramente anche specialità enogastronomiche, tra cui sanguinaccio per esempio, oppure pane al zenzero e gli crauti, quindi tutto quello che si usa questi giorni in Estonia. Perfetto, il crauto natalizio. Esattamente, questa si mangia con salsicce di sangue che si chiamano sanguinaccio, che si mangia solo questi giorni fino al metà gennaio, e che è molto buono, devo dire. E poi i bimbi sicuramente godono, a loro piace molto il dolce, quindi sono famosi anche piccoli biscotti fatti con tradizione estone, che vengono fatti con una pasta speciale un po' scuro, sì, di erbe e le spezie. Ho capito. Grazie davvero come sempre a Ulle Todde, buone feste Ulle, a presto. Grazie e buone feste anche a tutti voi e te. Ciao. E con questa musica che non è prettamente natalizia andiamo in Olanda invece per parlarvi di un festival prettamente natalizio. Sto parlando dell'Amsterdam Light Festival, che è sicuramente uno degli eventi principali in Europa legato a questo periodo dell'anno, e ce lo farà vedere via radio. Sappiamo che lui è bravo nel far vedere le cose via radio, e il nostro amico Christian Hesser. Ciao Christian, ben ritrovato. Ciao Federico, come stai? Molto bene, buon Natale intanto, grazie per essere qua con noi anche in questa giornata di festa. Che cos'è l'Amsterdam Light Festival? È una cosa fantastica, come tutte le cose qui a Amsterdam, facciamo un po' campanelli. Devi sapere che qui in Olanda, specialmente d'inverno, c'è poca luce. Cioè, sì. Quindi le giornate sono corte e le notti sono lunghissime. Certo. E come tutte le cose, delle deficienze devi farti una virtù. Allora cosa abbiamo impensato? Siccome le notti sono lunghe, accendiamo le notti. Okay. Le accendiamo con tanta luce. Allora la luce è il tema principale del Amsterdam Light Festival, una luce che viene usata in tutti i modi, in modo diversi, specialmente da artisti, da gente del mondo, della cultura, anche tanti designers che inventano delle cose con la luce, e la piattaforma è Amsterdam. Mm-hmm. Quindi una città che prende luce, una città che viene decorata, una città che viene ornata di luci. E, si nota la differenza ovviamente rispetto a tutto il tempo dell'anno, ma il tema è il Natale o questi artisti hanno libertà di azione? Ah, guarda, hanno libertà di azione, logicamente lo facciamo nel periodo natalizio, anche per far sì che la gente che viene a Amsterdam durante questo periodo abbia anche qualcosa da vedere. E ci sono delle cose culturali, ci sono anche delle cose più umoristiche, ci sono anche delle cose di crowdfunding, in modo che la gente si possa anche collegare a queste azioni di luce. E ci sono anche tutto il mondo degli hotel Amsterdam, dei ristoranti, anche loro partecipano facendo delle cosine che abbiano a che fare con la luce. Mm-hmm. Per esempio, sì. se vai in un hotel Amsterdam, ti fanno dei cocktail in cui la luce è elemento principale del cocktail. Certo. Però allo stesso tempo, se vai a Amsterdam, c'è il Rijksmuseum, che è il museo con tutti gli artisti, quelli di nome, dai Rembrandt, cioè quella categoria. Sì, okay. E è stato chiuso da 7 anni. Sotto il museo c'era sempre un passaggio di biciclette. Questo passaggio è stato chiuso da 7 anni e tutta la gente di Amsterdam era veramente, aveva un po' nostalgia di questo passaggio. È stato riaperto e per celebrare anche questo passaggio con questo festival ha fatto una cosa bellina, una specie di arco di luci con due, a destra e a sinistra hanno piazzato delle biciclette, 5 a destra e 5 a sinistra. E cosa fai? Ci si mette in team e si inizia a pedalare il più forte possibile per far sì che questo arco di luce si riempia di luce da parte tua e da parte dell'avversario, una specie di battle con la luce. Fantastico. E tutta la gente che sempre da lì a anni è passata con la bicicletta vedendo questa cosa si fermano e fanno queste battle. In questo modo ci si può anche riscaldare, ma per scaldarsi ho visto che sono state realizzate anche delle speciali panchine proprio a raggi ultravioletta, è vero che si può visitare il percorso pedonale ogni tanto, sedersi appunto e riscaldarsi un po'. Mi dici qualcosa di nuovo, adesso vado a cercarmele anch'io in modo che mi riscaldo anch'io un po' le chiappe. È un Natale freddo? No, qui è un Natale molto bello adesso, cioè non c'è assolutamente freddo e è anche la cosa bella anche per i turisti. Un'altra cosa carina, noi abbiamo il Red Light District, anche quello a che fare con luci, sì. E cosa hanno fatto? Anche lì ci sono dei canali, hanno piazzato un letto in mezzo al canale con tutte queste luci intorno, ed è una cosa un po' tematica nel Red Light District di mettere un letto e quello che vuole affrontare la possibilità di tuffarsi nel canale e arrivare fino al letto può passarsi tutta la notte. Grandioso. AmsterdamLightFestival.com è il sito per conoscere l'intero programma. Grazie davvero come Grazie. Sempre a Christian e buone vacanze, buon 2014. Grazie a te, auguri di Natale a tutta l'Italia che logicamente ci ascolta. Grazie davvero, ciao. Ciao Federico. E con questo canto popolare greco chiudiamo il nostro giro nell'Europa del Natale, in questo 25 dicembre che abbiamo iniziato così, qui a Radio 24, viaggiando nel continente per capire e capire quelle che sono le tradizioni e gli usi. E con questa musica greca andiamo a Naxos, diamo il benvenuto e il nostro particolare buon Natale a Thanasis Karavias. Ciao Thanasis, o Thanasis. Ciao, salve, Thanasis, forse. Buon Natale a voi tutti. Ciao. Buon Natale alla bellissima e grande Milano. grazie. Allora, cosa succede sull'isola di Naxos a Natale? Quali sono le tradizioni più diffuse? più diffuse sono la Calanda, cioè questa canzone di Natale che avete sentito, che vengono fuori i ragazzi con strumenti locali e la cantano, la gente gli dà dei soldini e dei dolci, sì, e sono tutti contenti. Poi a mezzanotte di Natale scende dal camino della casa, dal camino dove si mettono sotto i calzini per i regali, però oltre a Natale scendono anche certi piccoli ometti quasi invisibili, minuscoli, quasi diavoletti, si chiamano calicanzari. Sì. Questi calicanzari, dunque, ai ragazzi che non sono buoni, che sono stati cattivi, anziché dargli un regalo, gli danno un pezzo di carbone. Ok. come succede con... Voi tutti siete dei ragazzi buoni, bravi, e quindi non ci sarà il carbone, ma saranno i dolcini. Assolutamente. E i calicanzari vi lasceranno in pace. Noi li ringraziamo, a prescindere. E mentre i regali, chi li porta? Babbo Natale? I regali li porta il Oaius Vasilios, il San Basilio. Da noi non c'è il Babbo Natale né il Santa Claus, e il Oaius San Basilio è la festa e l'onomastico di tutti coloro che si chiamano Basilio. Ok, insomma. Allora, il loro onomastico il primo di gennaio. Uh-huh. E com'è vestito? È vestito da... Grande festa in Grecia. È vestito da santo? È vestito come il Babbo Natale, okay, solo che si chiama Agios Basilio, San Basilio. Uh-huh. Arriva dalla Cesarea, dalla parte orientale dell'attuale Turchia. Thanasis, che Natale sarà quest'anno in Grecia? Sarà un Natale molto difficile, molto triste. Molta gente non ha neanche la possibilità di riscaldarsi perché l'ente nazionale taglia l'energia elettrica, quindi chi non ha un caminetto soffre anche il freddo. Un Natale dove la gente non può spendere per avere la tavola e la serata di Natale. Mm-hmm. Sono condizioni veramente molto tristi, molto brutti. Per la prima volta ho conosciuto così in Grecia una situazione economica così dura e difficile, veramente triste. C'è solidarietà, cioè chi può regalare qualcosa tramite la Chiesa ortodossa, si fanno regalini ai bambini, qualcosa da mangiare, però sono tutte soluzioni, sai, un po' a livello umanistico. Certo. Lo Stato non può fare niente perché la situazione è molto brutta. Thanasis, grazie davvero per averci raccontato le tradizioni, ma per averci... con tutto il cuore, esatto, buon Natale, un anno diverso per noi tutti. Speriamo. E per la bella Italia, che riesca almeno lei di superare le difficoltà, perché l'Italia è la colonna dell'Europa del Sud, e noi guardiamo sempre a voi. Ti ringraziamo. Con voi i passi. Ti ringraziamo, e noi questo augurio lo facciamo ovviamente a voi. Ciao Thanasis, buone feste. Sì, è stato un viaggio nell'Europa degli usi e delle tradizioni, abbiamo chiuso con la Grecia, un tuffo nella realtà. Il Natale è anche questo, ha usato parole come speranza, come solidarietà, insomma le facciamo nostre e ci auguriamo che possa essere veramente un giorno e un periodo di pace per tutti. Un buon Natale da tutto lo staff dell'Altra Europa, Margherita Ine e Miriam Lucchetti, che con me hanno scritto la puntata, Paolo Corleone e Roberto Scaltritti, oggi alla parte tecnica. L'appuntamento con l'Altra Europa ovviamente è a sabato prossimo. Ancora ciao, ancora buon Natale da Federico Taddia. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.